Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo due titoli, due libri anticonformisti sul tema dell'urbanistica e della città. Il primo è quello di uno studioso italiano, Marco Romano, grande esperto di estetica della città, che ha appena pubblicato Liberi di costruire, Bollati Boninghieri, 172 pagine, 15 euro. Questo è un libro contro la pianificazione urbanistica. La tesi di Marco Romano, infatti, è netta e chiara. Questo è un inno al liberismo urbanistico basato non sul bieco interesse economico, ma sulla dimensione di libertà che, secondo l'autore, assume il farsi una casa. Questa, secondo Romano, è una dimensione che ha reso possibile anche il farsi delle più belle città del mondo, quelle italiane. Scrive infatti a un certo punto Romano: chi recrimina che la larga disponibilità di suoli edificabili delineata da un vasto piano regolatore per facilitare l'accesso alla cittadinanza sottrae terreni all'agricoltura e alla natura, sembra dimenticare che il possesso di una casa è la radice della nostra cittadinanza e della nostra democrazia, l'humus fondamentale per costruire la nostra identità di persone e di cittadini. Ma sentiamo su questo l'autore. Buongiorno a Marco Romano. Buongiorno dottor Carrubba, sono molto contento di aver sentirla. Immagino che anche i nostri ascoltatori lo siano. Allora, Marco Romano, lei ha scritto questo libro in cui sottolinea la centralità della città, dove si sviluppa, come scrive, la civitas, che deve però seguire le regole urbanistiche, appunto, della urbs. Quindi da un lato abbiamo la libertà che fa la civitas e dall'altro abbiamo le regole. Come si è vissuto questo rapporto nei secoli tra le regole e la libertà che la città esprime? Nella città europea a partire dal 1000 erano cittadini quelli che avevano il possesso di una casa e quindi la civitas, cioè l'insieme dei cittadini nel comune, tracciava delle strade e su queste strade i cittadini costruivano le loro case. Le loro case mostravano nella loro facciata la condizione sociale di ciascuno e quindi molte erano proprio monumentali, molto decorate, altre lo erano un po' meno, i più poveri avevano forse un vaso di fiori sulla davanzale, ma questa città era una festa. Le regole che mettevano i comuni erano molto modeste, lentamente, erano soltanto la preghiera di allinearsi lungo le strade, che poi ogni tanto bisognava anche allargarle perché certe qualcuna era proprio molto stretta, e l'altra erano poi delle regole che tentavano di limitare i danni, siccome le case erano costruite in legno, di limitare i danni degli incendi. Nel 1384 c'è un incendio devastante a Firenze e dopo vengono imposti le murature di pietra. Lo stesso succede dopo il 1666 a Londra, altro grande incendio, e quindi la muratura di pietra, cioè dei vincoli venivano posti e sono stati posti quando era diventato evidente il danno collettivo che sarebbe derivato dai comportamenti individuali. Ecco, adesso invece c'è un regime fortemente vincolistico che non mi pare abbia dato vita a delle città meravigliose dal punto di vista estetico. Certo, la condividiamo in molti, da molto tempo, ci sono 30-40 anni che c'è la consapevolezza anche nell'ambiente tecnico, nella sfera tecnica di quegli stessi che dovrebbero occuparsi del disegno della città, che la situazione è disastrata. È disastrata perché ci si è immaginati non che la città fosse, che il piano urbanistico della città consistesse nel disegnare delle strade lungo le quali poi i singoli cittadini costruivano le loro case, ma ci si è immaginati che la città fosse una specie di macchina, una specie di officina e che quindi andasse organizzata sulla base di diverse funzioni, di diverse destinazioni d'uso. In questa maniera le destinazioni d'uso si sono coagulate ogni volta in delle specie, si guarda un piano regolatore, in specie di fagioli che sono la destinazione d'uso di quella zona, che può essere residenziale oppure una volta poteva essere industriale. Che cosa è successo? Che a quel punto gli imprenditori edilizi hanno comprato tutto intero il fagiolo e ci sono presentati al comune con un loro progetto. Questo progetto non, nella massima parte dei casi non era legato, come quelli fino al 1950, al ritmo e alle sequenze delle strade esistenti. Era una specie di isola con le case disposte non più lungo le strade, ma disposte un po' come liberamente dentro dei prati. E questo ha fatto in modo che le periferie moderne siano sostanzialmente disastrate e le persone tendenzialmente, le persone che hanno una disponibilità economica, preferiscono andarsi a cercare una casa nella parte della città costruita fino al 1950. Ecco, però la massima espressione di libertà urbanistica che l'abusivismo spesso ha devastato le nostre città o anche aree esterne alle città. Beh, è vero, però l'abusivismo è la conseguenza di non avere previsto, più che altro, di non aver considerato legittimo il desiderio di una nuova casa. E in altri paesi il fatto che ci fosse sullo sfondo del desiderio dei cittadini di costruirsi una casa è stato considerato del tutto legittimo e quindi l'urbanistica è consistita nel disegnare strade e piazze sulle quali poi i futuri cittadini avrebbero potuto costruire le loro case. Invece in Italia c'è stata una forte tendenza a punire questo desiderio, a non mettere a disposizione delle aree ben disegnate perché le persone potessero lì costruire le loro case. E quindi sono l'abusivismo e poi l'avere trasgredito ad una regola che finiva per essere troppo trasgressiva. In effetti l'abusivismo è il frutto di un eccesso di restrizioni che si è avuto soprattutto nel sud Italia, mentre nel nord, tutto sommato, lei sa bene che l'abusivismo è molto molto ridotto. Tutte le volte che si parla di abusivismo si parla di vicende che riguardano il napoletano, le coste della Calabria, ma nel nord Italia di abusivismo vero e proprio ne parliamo molto poco. Possiamo criticare naturalmente che cosa è successo, come è avvenuta l'espansione durante gli anni 50 e 60, però è avvenuta nell'ambito di piani regolatori che sono stati regolarmente approvati. L'ultimo capitolo del suo libro si intitola Liberiamoci dallo Stato. Sì. La signora Thatcher, Dio l'abbia in gloria, peccato, non ha fatto in tempo a leggere questo libro. No, Liberiamoci dallo Stato, questa è una questione, nel senso che una serie di competenze, quando si è costituita la nazione, racconto nel libro, due secoli fa, la nazione sostanzialmente non esisteva, non aveva personalità, da Montesquieu a Renan, da Montesquieu alla fine del Settecento, a Renan alla fine dell'Ottocento si domandavano in che cosa consistesse la nazione, perché la nazione non aveva un carattere riconoscibile. E allora questo carattere riconoscibile è stato costruito sostenendo che tutti quei monumenti, gli edifici monumentali che erano stati costruiti dalle città, ora comprese le nazioni, non erano soltanto tanto il frutto dei comuni, come erano in realtà, ma erano l'espressione di uno spirito nazionale che coinvolgeva Milano e Palermo. A quel punto sono stati instaurati delle commissioni ministeriali nei ministeri, grosso modo quello che adesso è il Ministero dei Beni Culturali, ma sono ministeri che nascono nella seconda metà tardo Ottocento, con il compito di gestire tutto questo patrimonio, che in realtà era il patrimonio dei comuni, come se fosse un patrimonio nazionale. E questo è, che poteva essere una cosa a quell'epoca mirata perché costituiva la memoria della nazione, adesso ormai, ma non solo nel nostro paese, in Germania quella che viene chiamata tutela dei monumenti è affidata ai Länder che spesso la passano ai comuni. In Francia c'è un dibattito fomentato e anche ben seguito dagli stessi funzionari del Ministero, perché ci si è resi conto ormai che questa idea che i grandi monumenti siano un patrimonio della nazione non sta in piedi e che quindi bisogna che ridistribuire questa competenza ai comuni che sono stati i committenti originari di questi edifici monumentali. E quindi torniamo alla centralità della città. Grazie a Marco Romano, autore di Liberi di Costruire. E sulla città moderna segnalo il libro di un economista di Harvard, Edward Glaser, Il trionfo della città, come la nostra più grande invenzione ci rende più ricchi e felici, pubblicato da Bompiani, 583 pagine, 23 euro, tradotto da Giuseppe Bernardi. Questo è un libro che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti, nel quale l'autore spezza molte lance a favore della città. Scrive infatti a un certo punto: i densi agglomerati che punteggiano il globo sono stati i motori dell'innovazione fin da quando Platone e Socrate bisticciavano in un mercato di Atene. Le vie di Firenze ci hanno dato il Rinascimento e quelle di Birmingham la rivoluzione industriale. Insomma, la città è la più grande invenzione della nostra specie. E qui nel libro troviamo la sua storia, le prospettive, il futuro e anche la demolizione di molti luoghi comuni. Per esempio, a un certo punto Glaser parla degli slum e sicuramente scrive: è assurdo dare la colpa agli slum della povertà. Gli slum sono soltanto un'espressione della povertà. Un altro luogo comune che viene attaccato è quello dei danni ambientali che la città provocherebbe. Per esempio, a un certo punto l'autore parla dei divieti di costruire che caratterizzano la California. Se la gente potesse andare a vivere in California, scrive l'autore, probabilmente non vivrebbe in città, dove dovrebbe accendere più riscaldamenti, quindi creerebbe un danno ambientale molto minore. E poi ci sono tanti altri miti che vengono citati. Questo mito ambientalista, tra l'altro, che Glaser ricorda, si appella al mito letterario di Henry David Thoreau. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, che affronta adesso due generi forse un po' troppo trascurati, e faccio per questo mea culpa in questa trasmissione, cioè la poesia e il teatro. Un ascoltatore qualche settimana fa amabilmente mi ha ricordato che sarebbe il caso di citare ogni tanto anche qualche libro di poesia, e lo faccio subito allora ricordando il titolo di Enrico Testa, uno dei più significativi poeti italiani, che ha scritto Ablativo con Einaudi, 126 pagine, 11,50 euro. L'ablativo, ricorderete, è un caso della declinazione latina che indica un distacco, un'uscita, e questi versi di Testa, scritti tra il 2007 e il 2011, affrontano appunto i temi dell'assenza e della perdita, come spiega questa poesia che illustra appunto il titolo della raccolta. La litania dei casi recitati al ginnasio s'è fatta prognosi postuma dei giorni. Se tutto sommato poco frequentati, anche colpevolmente lo ammetto, i primi due, tra dativo e accusativo invece s'è consumato il maggior tempo, seguiti dal vocativo, per veglie albe notti, preghiere a volti muti, ascolti, sempre in duplice tensione, rivolto altrove e ad altri, o nell'attesa di una chiamata. Ora vivo all'ablativo. Poi veniamo al teatro con un'opera meno nota di Elsa Morante, che era stata pubblicata nel 1968 all'interno di una sua opera celebre, cioè Il mondo salvato dai ragazzini. Questo titolo è La serata a Colone, pubblicata ancora da Einaudi, 84 pagine, 9,50 euro. Questa è una parodia della grande tragedia di Sofocle ambientata in un reparto neurodeliri dove compaiono Antigone ed Edipo nelle vesti di due popolani, uno vecchio e cadente, l'altra la figlia ingenua, popolare vitale, capace però di cantare al padre una lode in termini neorealisti come quella che adesso ascolterete. Oh caro pa, di che colpa v'accusate? Non ci sta nessun altro padre buono come voi, che voi m'avete sempre perdonato quando non volevo farmi pettinare e quando mi scordavo le cose e quando mi sono rubata le perle della comare e quando ho dato le sarde fresche da mangiare ai gatti e menavate ai miei fratelli quando loro mi menavano. Voi che male avete fatto mai, povero vecchio? Voi sempre avete lavorato per la famiglia e se non era per questa malattia, a quest'ora si stava a cenare tutti assieme coi fratelli e la sorella alla casa nostra. Poi vi propongo un grandissimo classico, Luigi Pirandello, perché torna una delle interpretazioni e delle analisi più celebri sul grande drammaturgo di Agrigento, cioè quella del critico e filosofo Adriano Tilger, che visse tra il 1887 e il 1941. Il libro si intitola Pirandello, il dramma di vedersi vivere, pubblicato da Solfanelli, 108 pagine, 10 euro. Quello tra i due scrittori fu un rapporto importante. Tilger fu considerato di Pirandello forse l'analista più profondo, e il loro fu anche un rapporto difficile, segnato anche dalla frattura dovuta dall'adesione di Pirandello al fascismo. Insomma, scrive il curatore Pier Francesco Giannangeli, il rapporto fu un rapporto contraddittorio, ma esso diede vita a pagine che sono ancora attualissime su Pirandello, per esempio quelle nelle quali ci ricorda, scrive Tilger, che nel dramma di Pirandello il punto nodale cruciale è il minuto irrevocabile e solenne in cui le costruzioni e formazioni convenzionali, gli argini sociali cadono come foglie secche e l'uomo si trova faccia a faccia col nudo volto, con l'informe abisso della vita. Restiamo in ambito pirandelliano con un grandissimo interprete, anzi con un grandissimo regista di Pirandello, che fu Giorgio De Lullo, scomparso nel 1981, al quale Fabio Poggiali dedica Giorgio De Lullo, regista pirandelliano, dal teatro alla televisione, pubblicato da Mimesis, 330 pagine, 26 euro. Questa è un'opera importante non solo per ripercorrere la carriera del grande regista, ma anche per rivisitare la storia del teatro e della televisione italiana, alla quale De Lullo diede un grande contributo. Basti pensare che nello stesso anno, nel 1954, iniziava la propria trasmissione la RAI, il 3 gennaio, con un'opera di teatro, per l'appunto L'Osteria della Posta di Carlo Goldoni, e nasceva una delle più importanti compagnie teatrali italiane, cioè la Compagnia dei Giovani, una mitica compagnia formata dallo stesso De Lullo, da Romolo Valli, da Rossella Falk. E De Lullo fu considerato un rinnovatore profondo del teatro e delle interpretazioni pirandelliane. Infatti, scrive Poggiali, attraverso le sue regie, grazie alle magistrali interpretazioni della Falk di Valli, si riscoprì un Pirandello non più visto sotto l'ottica di un sofistico cerebralismo e intellettualismo, ma valutato prima di tutto come un autore teatrale che seppe esprimere meglio di chiunque altro nel XX secolo l'angoscia e le contraddizioni dell'uomo moderno. E così ci accostiamo anche all'importanza del teatro e dell'interpretazione. Un altro grandissimo protagonista del teatro è un'intera città, Napoli. La troviamo nel libro di Stefano De Matteis, Napoli in scena, antropologia della città del teatro, è pubblicato da Donzelli, 218 pagine, 20 euro. Il teatro qui diventa una sorta di metafora delle condizioni della città, la cui crisi si riassume nella domanda da cui parte il libro. Di quali mezzi le persone dispongono per difendere la loro umanità, si chiede infatti l'autore, soprattutto quando queste persone non posseggono nulla nell'ordine materiale delle cose? E allora da questa domanda nasce un viaggio insolito nella città, nelle sue mitologie, nelle sue rappresentazioni, nei suoi rituali, e domina un fenomeno sociale, la scomparsa del popolino e della sua cultura, messa in scena in tante opere immortali. Napoli è o era un teatro naturale. Napoli, scrive l'autore, si mette in scena quotidianamente grazie al comportamento sociale recitato, ed è anche la casa di una tradizione di autori e teatri che furono capaci di dare voce alla città autentica, per esempio naturalmente Edoardo De Filippo, che si mostra capace, scrive De Matteis, di guardare la vita, di riflettere e di deformare la realtà, come se fosse un etologo che studia il branco, il gruppo, la famiglia, non l'individuo singolo. Il teatro della società, aggiunge, si traduce nella messa in scena della piccola borghesia e nella costruzione di un mondo di apparenze, per cui Edoardo diventa l'autentico rappresentante di Napoli. Il teatro come simbolo di un'identità collettiva è quello che troviamo nel libro di Maria Teresa Antonia Morelli, L'unità d'Italia nel teatro, le istituzioni politiche, identità nazionale e questione sociale. È pubblicato da Bulzoni, 338 pagine, 25 euro. Qui dunque il teatro diventa occasione per definire l'identità stessa della nazione. Il teatro infatti fu una poderosa macchina per la formazione dell'identità culturale della Nuova Italia, macchina che qui viene esaminata nel periodo precedente all'unificazione italiana e in quello immediatamente successivo fino alla crisi della fine del secolo, quando cambiano gli equilibri politici e fanno i primi passi delle innovazioni per il tempo fantascientifiche come il cinematografo. All'inizio, scrive l'autrice, il teatro occupa un posto centrale nella cultura nazionale, diventa luogo di incontro di artisti, di politici, di operatori economici, cioè di coloro che stanno facendo la nuova nazione. Nel libro si parla dunque di questi filoni, delle varie espressioni come il teatro dialettale e il teatro musicale, e a proposito di pubblico capiamo anche l'innovazione che fu rappresentata da Edoardo De Filippo. La capiamo quando leggiamo in questo libro come il teatro, almeno fino alla fine dell'Ottocento, sia stato un teatro nel quale si autorappresentava l'alta borghesia. Poi, pian piano, scrive l'autrice, la scena cambia e si dà spazio anche al gusto della media e piccola borghesia, quella che appunto sarebbe stata cantata da Edoardo. La piccola borghesia, scrive l'autrice, vuol trovare il suo mondo. E anche gli autori quindi abbandonano, aggiunge, in un primo momento l'uso del dialetto per servirsi della lingua italiana e si omologano alla classe dirigente, seguendone i gusti e le aspettative e mettendo in atto un atteggiamento di trasposizione sulla scena dei modi di vivere della società borghese con una chiara intenzionalità moralistica. Insomma, il teatro del primo decennio successivo all'unità rappresenta un aspetto della lotta borghese per l'egemonia sulla vecchia classe dirigente e sui ceti popolari. Una storia del paese, quindi, si può capire e narrare anche dal teatro. E a questo punto... Il confettino. Ho visto un re. Se lo riscuse? Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Troviamo tre protagonisti del teatro e dello spettacolo, a partire dall'indimenticabile Enzo Iannacci, nel libro Visto un re. Dario Fo, l'autore del testo, Iannacci la canta e c'è nel libro il CD con la canzone originale e le illustrazioni sono di Emanuele Luzzati. L'edizione del libro col DVD è di Gallucci, 12,90 €. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.